Cristo, Cristo, eccoci qua, devo lanciare il prossimo blocco. Lui ha sostituito Raz De Can, quel deficiente lordo cornuto di Paolo Barale, e praticamente l'abbiamo sostituito con l'uomo che si fa mille domande, ovvero Andrew, vuoi aggiungere qualcosa per descrivere il prossimo blocco che andremo a lanciare? Ma di descrivere niente, volevo soltanto ricordare le esperienze vissute con Mitico Raz, il suo programma, il Mistero, un programma a cui ci eravamo affezionati molto. Ci dispiace, ci dispiace che non lo presenta più. Vedete la disperazione della gente, si butta dal balcone. Ma ci avete notato, sono tre anni che se ne vanno sempre gli stessi puntati. Ma diciamo che approfondiscono il discorso, ma sempre stesse puntate, so, La stessa cosa, è la stessa cosa. Che si era affezionato il la stessa cosa la possiamo la stessa cosa possiamo fare, dire la stessa cosa possiamo dire con Roberto Giacobbo, che ci rompe i coglioni con questi templari di minchia che sono in Italia, che sono in Norvegia, che sono in Svizzera. Ma sono scattate millenni fa questi templari, ma chi mi ne frega, esattamente, punte, no? Per, il, per voi e per farvi dire chi mi ne frega, c'è voi e c'è. E che c'è che ragazzi di 500 che hanno ma di cazzo hanno non buttiamo a terra perché è un'esclusiva di Web Radio Luz, non per la 500, non per la 500, ma uno si aspetta una DeLorean, Michael J. Fox che finisce dentro Marco Rumor Bay Parkinson e si ricoglie, ma cosa e c'è Roberto Giacobbo dalla 500. Signore e signori, ecco a voi, dopo averlo diciamo criticato in maniera benevola, Roberto Giacobbo con Voyager.